ritorna più. E il mio cuore si strugge della mia vita. Quante frasi dolci ha passate, quanti sogni d'oro qui nel cuore. Tutte le più belle serenate io vorrei cantare al vento per parlarti del mio amore. Oh.